è un nostro fatto. Ando entrando. Quante volte spalla a spalla, senza chiedermi chi fossi, per le strade rassegnate, per cercare del calore, dell'accendere qualche fuoco. Quante volte come gatti, con la stessa rabbia dentro, con la notte che ci copre, nel tentare di colpire tutto quello che ci opprime. Qualche volta poi succede qualche errore demenziale, o la sfiga da dannare, c'è chi cade nella rete allora. Per quelli chiusi dentro, per te che batti ora accendo una ninja con premura, che terrorizzi la questura, che faccia fuori queste mura. Per quelli chiusi dentro, per te che batti ora accendo una ninja con premura, che terrorizzi la questura, che faccia fuori queste mura. Questo schianto disperato, questo mostro sempre odiato, un rumore nel silenzio per non sentire lo tormento. Io qua fuori e tu là dentro, una breccia fra le mura, una breccia che depura, che distrugga le distanze, per poterci rincontrare, per combattere ancora assieme. Qualche volta poi succede qualche errore demenziale, ho la sfiga da dannare, c'è chi cade nella rete allora. Quelli chiusi dentro, per te che manchi ora accendo una ninja con premura, che terrorizzi la questura, che faccia fuori queste mura. Per quelli chiusi dentro, per te che manchi ora accendo una ninja con premura, che terrorizzi la questura, che faccia